vecchio borto degli amanti che il poeta immortalò. E chi io ripenso pallidi e tremanti come amore li avvinghio, porco ascolta questa volta la nuova storia che narrare ti vo. Perde l'eco che dice cuore cuore, e spasimi con me, sopporta il mio dolore, cuore. Tu sai perché non bevo e sono ubriaco, non gioco e perdo al gioco dell'amore. In mezzo a queste rose gialle la speranza d'un chissà, e la canzone mia si perde a valle con la mia felicità. Ora nona suona, suona e dimmi ancora e pare di non verrà. Spasimi con me, sopporrete il mio dolore, cuore. Tu sai perché non bevo e sono ubriaco, non gioco e perdo al gioco dell'amore.